L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Con il nuovo anno, il mondo dell'autotrasporto torna a riflettere sulle sfide e le prospettive della stagione appena iniziata, a partire dalla legge di stabilità e dai provvedimenti per il settore messi in campo alla fine del 2019. Fra i temi più attuali, quello dell'intermodalità, una questione centrale nelle politiche italiane dei trasporti, considerando che dal 2016 vengono stanziati incentivi per favorire lo shift mondiale con i meccanismi del mare bonus e del ferro bonus. La finanziaria ha riconfermato nuovi fondi per questo. Nei prossimi mesi prenderanno il via anche tavoli di confronto con il governo, già previsti lo scorso anno, su alcuni dei temi più cari al settore, come quello dei tempi di pagamento. Inoltre, fra le novità del 2020, c'è la fine dei rimborsi per le accise sul carburante per i veicoli Euro 3, a partire da ottobre. Contestualmente, però, sono stati stanziati nuovi fondi per rinnovare il parco veicolare italiano, fra i più vecchi d'Europa. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, ci siamo lasciati dietro un 2019 con tante questioni che riguardavano l'autotrasporto, in parte risolte, in parte che attendono una risposta ancora nel 2020, dal mare bonus al ferro bonus, al problema delle infrastrutture, alle accise, insomma tanti temi di cui parliamo oggi in compagnia del nostro ospite che è Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti e di Unatras. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Allora, cominciamo proprio dal mare, questo perché abbiamo anche sentito questa settimana ci sono state un po' di proteste, soprattutto nelle isole, soprattutto in Sicilia, che riguardavano l'aumento dei noli marittimi, quindi delle tariffe per quanto riguarda le merci. In realtà il mare è sempre uno sbocco importante per l'autotrasporto italiano, tant'è vero che è stato rifinanziato anche quest'anno il cosiddetto mare bonus insieme con il ferro bonus. Ecco, questo tema, quello della intermodalità, della possibilità di far viaggiare le merci utilizzando varie modalità di trasporto, la strada, il mare, la ferrovia, quanto è caro a questo settore? Beh, sicuramente il nostro settore è positivo nel merito dell'intermodalità. Il futuro io penso che sia sempre più intermodale, che ci sia sempre meno tutto strada, ma ci sia l'intermodalità. Quindi è più che positivo che siano stati rifinanziati sia il ferro bonus e il mare bonus. Il ferro bonus ha un finanziamento di 14 milioni di euro per il 2020 e di 25 milioni del 2021, mentre invece il mare bonus aveva quei 20 milioni strutturali che c'erano già, che valgono per il 2020, e hanno 20 milioni, sono stati rifinanziati per 20 milioni anche per il 2021. Sicuramente vuole messo a punto questo sistema di finanziamento, anche perché noi ci siamo sempre lamentati perché questi soldi non debbono andare agli armatori o ai ferrovieri, ma debbono andare sotto forma di voucher agli autotrasportatori per incentivarli a salire sul treno o a salire sulla nave anziché fare tutto strada. Quindi io penso che il futuro sia sicuramente su queste strategie, però vuole modificata questa normativa nel merito di voucher. Sono io che decido se salgo sul treno o sulla nave, quindi devo avere i voucher da spendere io, non darli in mano a dei terzi. Perché lo ricordiamo, salire con un veicolo su una nave o su un treno rappresenta un costo che va in qualche modo affrontato. Ecco, mare bonus e ferro bonus sono entrambi dei successi del 2019, il loro rifinanziamento era stato chiesto dalle associazioni di categoria. Ci sono anche dei tavoli che sono stati previsti con il nuovo anno anche con il governo, nei quali affrontare quali tematiche? Tematiche principali che dovrebbero essere affrontate, che erano quelle, diciamo, mi rifaccio al protocollo firmato il 19 novembre con la ministra, soprattutto le cose che a noi premevano più di tutto, l'autotrasporto ci teneva in modo particolare, la categoria è alla finestra in attesa di queste risposte, erano sulla questione della ripubblicazione dei costi di riferimento e soprattutto soprattutto anche i tempi di pagamento, perché va da sé che sappiamo tutti che l'autotrasporto purtroppo è l'ultima ruota del carro, infatti abbiamo le ruote, però siamo pagati, oserei dire, quasi a babbo morto. Se non siamo contenti ci fanno anche i concordati di continuità. Va da sé che se io salgo sul treno pago prima il biglietto, vado sull'aereo pago prima il biglietto, vado sulla nave pago prima il biglietto. Noi invece diamo il servizio e non sappiamo neanche quando incassiamo. Quindi la cosa che ci premeva in modo particolare era la ripubblicazione dei costi di riferimento, che avrebbero dato sicuramente un input, e darebbero un input alla categoria positivo, non tanto più quelli obbligatori ma quelli di riferimento, ma sicuramente un risultato l'avrebbero portato a casa, e in più i tempi di pagamento per risolvere questo annoso problema che da anni viviamo sulle nostre spalle. Che quindi sono due temi che vanno affrontati nel 2020. A proposito di costi, un costo importante per il settore è sicuramente quello del gasolio. Dal prossimo 1 ottobre verrà meno l'agevolazione per il gasolio consumato da veicoli appartenenti alla categoria Euro 3, questo dopo un lungo braccio di ferro dal governo, perché lo ricordiamo, questo taglio doveva partire già dal 1 gennaio, quindi questo slittamento è in qualche modo anche questo un successo delle nuove relazioni fra associazione di categoria e governo. Quindi niente più Euro 3 da ottobre, ma niente più Euro 4 dal 1 gennaio del prossimo anno. Quale effetto avranno questi tagli sulle imprese di autotrasporto? Ma sicuramente è un effetto negativo, perché è una perdita importante economica sui carburanti, che non ci spettano perché siamo belli, ma ci spettano perché abbiamo il carburante più caro d'Europa. Però su questo abbiamo giocato una partita, c'è alcuni anni che giochiamo, sul fatto di avere un fondo di rotazione, di investimento per cambiare i veicoli, dare un aiuto, diciamo, concreto a chi deve cambiare questi veicoli che ormai cominciano a essere datati. Finalmente quest'anno nella legge di bilancio sono usciti 30 milioni di euro, oltre i 25 già strutturali per gli investimenti, per cambiare i veicoli. Vogliono riparametrati sicuramente gli importi che vengono dati al trasportatore, a chi cambia il veicolo, perché prima la partita si giocava nel fatto che uno faceva domanda, incassava i soldi dopo 3-4 anni, non si sapeva mai quanto portava a casa, quindi non c'era certezza dell'investimento. Oggi la certezza dell'investimento, cioè quello che ti promette lo Stato di aiuto, c'è. Certa, se entri dentro e hai fatto domande in tempi utili porti a casa quello che ti è stato promesso. Ci manca ancora su questa, diciamo, per perfezionare il meccanismo, la possibilità della compensazione che era stata pattuita col governo, anche di avere la compensazione, cioè nel senso che faccio domanda di investimento, vengo inserito nella lista, faccio l'investimento, matricolo il veicolo, lo targo e tutto, fatto quello, in pratica il governo mi dà l'ok, io posso portare a casa in compensazione senza aspettare 3 anni. Però è molto importante che sia partito questo fondo, perché 30 milioni quest'anno più i 25 strutturali, come dicevo prima, abbiamo a disposizione, certo, 55 milioni di euro. Quindi ci aspettiamo un forte ricambio del parco veicolare, che tra l'altro ricordiamo, così come per le automobili, anche per i veicoli pesanti, in Italia è tra i più vecchi d'Europa. Vediamo che la gente cambi i veicoli, è l'ultima spiaggia, l'ultima chance che c'è da cambiare i veicoli per portare a casa qualcosa. Generali, siamo in chiusura, abbiamo però tempo per un'ultima battuta legata alle infrastrutture, perché questo è un tema caldo, lo sappiamo, lo sentiamo ogni giorno, un tema che però gli autotrasportatori vivono in qualità di vittime, in quanto molto spesso abbiamo delle difficoltà che le imprese hanno a muoversi in Italia a causa delle infrastrutture. Sicuramente il tema delle infrastrutture è un tema annoso, è un problema grossissimo. Il governo deve intervenire in modo deciso su tutta la rete infrastrutturale, soprattutto in quei luoghi in cui ci sono delle grandi problematiche. Vedo la Liguria, c'è un'infrastruttura solo, oggi in Liguria forse bisogna andarci con l'elicottero, per essere molto chiari. La partita dei viadotti che vengono posti sotto sequestro nell'area dell'Abruzzo e del Molise. Cioè, oggi in Italia sembra che stia franando, che le nostre infrastrutture si stiano ritrovando da tutte le parti. Sicuramente non vorrei dimenticarmi anche la Sicilia, è stata chiusa una galleria, bisogna fare un giro del perdono, oserei dire un giro dell'oca, e automaticamente è molto difficoltoso fare fronte a questi giri, a queste difficoltà stradali legate ai tempi di guida e di riposo. Quindi il governo deve intervenire in un modo importantissimo su queste infrastrutture. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Ringraziamo e salutiamo il nostro ospite Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti e di Unatras. Grazie per essere stato con noi. L'appuntamento con Container torna sabato alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.